stai a metà? Ora, ora. Sì. Va bene. Teniamo le luci per registrare oppure no? No. Ok. Quello è fondamentale, la luce. Thank you.